struttura della era tecnico a piano terra Fancello e io ero l'ultimo, quindi c'erano due gran presa al latte e l'antenna era una boomerang che sta per terra sul primo piano. Eravamo in tre, che poi che dovevamo la preparazione lì. E che bomba di un casino, soprattutto tu che all'epoca mi avevi rubizio di attaccare l'amplificatore. Ma io che anche voi stavate dicendo un boom anche apparecchio. Non mi sono attrezzato, cosa vedevo io, ti fa male. E avevo contato le FT250 a valvole e non sentivo manco il moto, figura. E la banda stretta. Se uno parlava sotto casa mia non lo sentivo per niente nel canale a fianco. Era bello solo per quello, allora mi ero organizzato in trasmissione del PT250, in trasmissione una antenna installata dall'altra parte, con un altro baracchino, hai capito? E quindi ero tranquillo, non avevo nessun problema. Il colpo che pigliavano gli altri, poi vabbè c'erano i CB, lì li abbiamo tenuti, ce ne avevo due, poi avevo un altro di fronte a casa mia, per il centro, all'altezza dove c'è Pino, colpo che è stato di fronte, quello alto, alto, alto, poi ci abbiamo il signor Saba, ci avevo un altro baracchino, un'altra ragazza che aveva baracchino, quindi ero circondato, poi c'era coso, la palavra di Rivera 3 in via Marsiglia, eccetera, eccetera, ero tutto pieno, cioè dove abitavo prima, lì c'è lì. Ah, è morto Rivera 3, scappa. E poi chi vinceva lo sai chi era, che aveva l'amplificatore, che la peppina e qualcuno ci stuttaffava la compagnia Bernuda. E infatti da guadagnare io. Più di 2000 euro avevo comprato un MK3, perché allora c'erano le gare, c'erano quelli anche che non avevano le balle a quelli di Sassa, e quindi allora ci siamo alleati, io e Claudio, lui con il TL922 e io con il 600W. Ma anche lo facevamo grogo. Dovevano chiedere il permesso anche per poter entrare quelli di Albino. L'ultimo periodo era successo, mi sembra che c'era gente di quei municipi della Croce, in pratica, ma ragazzini erano, non c'era, è durato neanche poco, neanche un mese. Allora alla fine abbiamo fatto, da oggi in poi il muro di Berlino, da Venezia da Cambolati non entra più nessuno. Allora per la mania della puzza, vera? Io dalla mattina alla sera sempre con lì attaccato, immaginati. Quando sono entrato prima due volte, con la Rubi 131, 120. Aveva trovato anche l'esco, addirittura acceso, perché c'era un fumo, dove all'inizio, in cucina, c'era la... come si chiama, mamma mia, un foretto che vera, non lo accendevo in casa, mi alzavo verso le 8, accendevo il lineare e mi scaldavo, e così anche la notte, quando rimanevo mezzanotte, l'una, le due, le tre mattino, le quattro. Capa, quello che vinceva di più era sempre quello che c'era l'antenna, e vitamine attaccate. Roba in colpi, bigliavi. La verità, colpi. Proprio colpi no. Io, dopo che era andato via Fancello, era andato Giuseppe Altaruna, che parlava baracchino, aveva installato l'antenna a fianco alla mia, e c'avevo la via 27 e lui c'aveva, adesso non mi ricordo che antenna c'aveva, e c'aveva stata installata a casa sua. E parlava di lui, per parlare con me dovevo attaccare i lineari, se no non riuscivo a capirlo. Aveva fregato un apparecchio da un pastore, di quelli volendo vecchio in legno, mi sarei presente con te, che rimaneva orizzontale sopra e poi scendeva all'angolo, capito? E poi qualcosa rifettoso, non so cosa, e per sentire a me ma io devo attaccare il lineare, ti sembra normale una cosa, il cioè, dice, lì c'è un disetto, con il lineare sì, allora attaccare il 2831, fammi sentire. Come mai? Lo risolvo, a me lo chiedi. Avevo fatto un togliaggio quella volta, una volta ti parlo di tanti anni fa, dormiva a riposta e cazzo, un'altra poca appuntamento in casa Baracchino a CB, e guardate mi chiamano, Ale, ma quella ragazza che c'era ieri notte, la casa tua parla, e te l'ha patetto a casa mia, ragazzi, non ce ne so, perché gli ho detto, mi voglio il mio fratello, dice perché ieri notte l'altro appuntamento a tutti lì al bar, la signor Carlo, questa ragazza, ha detto guarda che io, questa ragazza così non le ho a casa mia, gli ho detto. Per carità, qualcuno sta facendo lo scherzo. No, oh, non è solo scherzo, è la nipote di Giuseppe Altavola che è la casa sua, che si diverte per gli appuntamenti, la notte, capito, per una ragazzina. Lei abitava lì dove abitava a Coso, quel CB che usciva con la moto, cazzo. Adesso mi viene a mettere un attimo, abitava a primo piano. Ah, ma lo faceva per gioco o era vero questa? Sì, era vero già, tanto bel gioco era. Ah, non è che non lo vedo, c'è uno all'altro, non so neanche se più volta lunga. E già cominciato la prima. Figurati. Una volta è diventato tutto impallinato. La parte di cuore di voi mi ha chiamato, arrivavo 9.20 a casa mia, mi ha detto, figurati, io arrivavo 9.30 a lui, la cima di passo del cuore di voi, e allora, diciamo che stiamo entrando, mi ha detto, va bene, allora ci vediamo tra poco a Sassari, e dicevo, guarda, un paio d'ore, mi ha detto. E come avevo spalato, mi ha detto, era una bella zona, ma la sto rimpiangendo con quella via, la verità, era l'unica che parlava con tutta la Sardegna, con Cagliari, Gracino, Bono, non ti posso dire, a parte, vabbè, questo è stato niente da fare, ma senza arrivavo, sì, quello sì, per esempio, certo Sardegna e basta, e sono tappato. C'era uno di Assignoli che era avvicinato, arrivava 9.20, che non so se è quella vivo, so che a Cazzo del Sardo non ce n'è, non c'è un CB forse, no? Sì, già ci sono state a Cazzo del Sardo CB a Voglia, non so se era pieno a Cazzo del Sardo, c'erano le barche la notte uscivano, parlavano su canale 1, figurati tu. Era bello, vabbè c'era un sacco di gente prima, fino alle 5-6 del mattino sentivi di tutto di più, ma non è come adesso con Mortorio, la ragazza era piena, ne sentivi di tante entrare, non è come, poi quando ho inventato il telefono, il computer, no, tutti hanno mollato. Cappa, allora era così, era, da venire Nia. Non lo so, non ho mai capito finché dove posso arrivare, non ci ho mai capito, va. Vabbè, poi c'era Falcone, se fosse stato adesso Falcone sarebbe stato tutta la 27 fila, te lo dico io. Già c'era una mezza idea, ma assolutamente gli hanno proibito. Sì, vabbè, adesso ci sono i PMR, basta dargli un PMR in mano, non da fastidio a nessuno. Facile, potete diventare sul 7, diventa sul 6, sul 5 per dire, a meno che non vada nel canale, ed è qui di canale 1 dove sono quelli del coso, che gli fa il gioco alla calzetta la mattina presto, a quelli del cubito. Ma mi sa che quei tempi sono finiti. Vabbè, allora, perché tornava a quella frequenza di Zavallo, la 27, ma avevi pensato a un noio di un adesso è cambiato tutto. Immagina adesso su canale FBC sono quelli che stanno facendo i vaccini, ma che non esisteva prima, sempre ancora su loro ci parlava, cioè abbiamo parlato noi tanto tempo fa, andavamo con la Liguria tutti i giorni con l'allevatore, cioè l'allevatore era un CD che poi si è diventato un patentino, però la direttiva che ci ha dato tutta in Sardegna ci sentiva tutti. Io scendevo in strada con un portatile standard, me lo ricordo sempre, e LTT mi sentiva benissimo, hai capito? Lì in questo momento della Noele. Poi è stato quasi un anno e mezzo, poi è sparito. Lo so. Mettete quelli, mettete. Però c'era anche più CD per quello, sono proprio diventato un orgoglio. Qua sono qua, ci siamo. Lo so già. Stavo dicendo, quel coso mette l'Emanuele, minimo mi sarete arrivato a fondo scala. Lo so, lasciate perdere la cosa, ho mandato quel cazzo di antenna, te lo ricordi, pensate da un mese pigliata, ma va a far culo, quando sono tanto ho detto, ma bella antenna mi hai dato, perché cazzo non fa niente questa antenna, ti facevo la foto della piega, come dice lui, ho detto, il primo momento che ha fatto, ho detto, me l'ha piegata. Allora va bene, ho detto, come fa, ho detto, ogni mese quando sto vento, ho detto, questa partenza, ho detto, per avvicinare l'antenna, ma tu sei tutto basso, signore. Ho preso e avevo cambiato antenna, l'ho preso una cosa, la GBC. Antonio, un qualcosa di strano, che quella lì era marchiata Sirio, loro Sirio non ne avevano, cioè hanno sempre avuto problema, è quello che mi ha perplesso un po'. Senza suicendo. Piegata me l'ha detto, questa bella antenna mi hai dato, io ho detto, Antonello, tranquillo, questo è 120 km/h, sì, domani, primo vento, tutta pigiata, non ti potevo manco vedere con l'altra, te lo dico, ho detto, sono smontata, ho detto, via prendo, ti ha detto, la porti via, ma te la preferenza, ho detto, va bene, gli ho preso l'altra, gli ho preso, va bene, è stato quell'altra, infatti. Sì, sono partito, ho preso la stampata addirittura, perché quando ho messo la scala, quella ragazza brasiliana, cazzo, abbiamo messo la cosa, la cera, cazzo, neanche la fila, quando ho messo la scala, giù con quell'altro, si è spostato da sola, meno male mi sono agganciato alla, come si chiama, al canale di scarico, se no ci sarei sceso come un imbecille, cazzo. Non cado. Me la ricordo, ma io sono sempre rimasto perplesso perché era di quella marca lì, quell'antenna. Cioè, non sono sempre rimasto perplesso. Che loro non ne vendevano, ma il Sirio loro non ne vendevano, vendevano sempre la LEM. Cioè, la LEM hanno sempre venduto. Lo so, infatti io ho detto, per cura mia, una campagna. Metà alluminio, metà in vetro resina bianca, dicevo non volevo di quelle cioccolette, mi ha detto 50 euro da portata a pagare. Cazzo, ho detto, costa la metà della moto, ma gli ho detto gira, la moto la costava 100 euro, 110, una cosa del genere. Allora avevo la Superlem. Ma la moto la costava di meno, figurati. Ma tu quella, ho pensato a quella lì, ho pensato. Già uscivo bene la verità, perché usciva bene come antenna, c'era otto attacchi radiali, ha detto, lo ricordi, che devi metterci otto radiali orizzontali e otto a 45 gradi, quindi potevi fare una specie di super 16, una cosa del genere. Sì, ma io non ho mai capito perché era di quella marca, che io non ne ho mai visto a Ede. Tu non l'ho mai visto, io quando l'ho vista, sì, sotto al cielo qua, mi sono accorto, ma questa prima è questa, ciao, gli attacchi radiali, sui risultati, e a potevo fare la soppressione lì tranquillamente. Non lo so, quanto è grande la Grand Play, normale? La Grand Play normale è lunga, 2,65 m, c'è poco da tagliare. L'originale è metà alluminio e metà vetroresina. Metà alluminio pieno e metà vetroresina bianca sopra. E quella era bella, la verità. Quella durava un sacco di anni, durava. Il problema è che quando andava a smontarla ti rimaneva in mano. Perché lo sai che si forma l'ossido e un cazzo non altro di più. Lo so, ma era buona però. Lo so che era buona, ma purtroppo era fatta così. Cosa ci vuoi sapere fare? Io l'ho avuta. Ieri in seguito è durata un bel po' di anni. Avanti Giovanni. Bello, ci vediamo fra 10 minuti. E via. Ok, allora, ciao a tutti. Ciao. Mamma, quella lì è buona, da dove ti riesci a pintare e vulcanizzarla tutta quella Grand Play per non pigliare ossido? No, non tiene nulla, l'ho vulcanizzato, ricordate lo sempre, tra il caldo e il freddo, il vulcanizzato si espande e si stringe, quindi no, l'unica cosa è la o grasso o vasellina, lo posso fare solo così, la Grand Play. Quell'altro non può fare nulla. È buona la vasellina, è buona. Infatti io usavo la vasellina, io per me, anche per la moto usavo la vasellina. Quando ho installato l'antenna a Manuela Valli, quella che parlava a mattino sulla notte, ho preso tanto tubetti di vasellina in farmacia e metterò la farmacista in salo, non lo ricordo ancora. Che cosa gli serve questa vasellina? Io ho detto, certo lo mettermela in cuore, io ho detto, mi scusi. Io sono antennista, mi sono detto, per lubrificare la finestratura delle antenne, dietro le macchine. Ah, va bene, io pensavo di dire, no, grazie a Dio non ho bisogno, ho detto. Già uso il semi, ho detto. Allora, come ti faccio? Cosa devo fare? Per l'altro è durato a momento, non c'è bisogno di tanto vulcanizzato e nulla. Cos'è la vasellina dura parecchio tempo? C'era la vasellina lì, qui adesso, prima non c'era quella densa, gli alfanori con la mano, solo che a un certo punto andavi qui a stringere il palo, cazzo, più stringevi più ti scivolava l'antenna. Lo so già. Già lo so Antone, ma io ho usato vasellina qua, ho usato, guarda, c'è sempre in chibi, cavolo, funziona, sempre qua, sempre funzionando, sono l'unico per l'arrinco. Anche il grasso per i freni, va bene, lo sai, quelli che si usano per grasso per le moto, cosa del genere, che tu ci metti le filo del freno del grasso, va bene anche quello, quindi conduce anche quello. A volte nelle antenne vecchie usavano quel tipo di grasso. Il problema era staccarlo l'antenna dopo, cioè una volta che installavi andava a staccarla, cazzo, con tutto il grasso. Non sai come ti diventavano le mani, non si poteva toccare, cazzo, manco con i guanti. Dovevi staccare l'antenna intera e intera, appoggiarla intera, da una mano, cazzo, prenditi 3-4 volte di carta igienica, cazzo, e togliere il grasso. E poi all'ultimo la parte per forza le mani, perché non c'era tutto il coso. Talmente erano riempite di grasso che facciamo schifo, sono toccate. Io uscivi con tutta la maglietta piena di grasso. Che non è fenda burrotto in occhi. Spagnoli sono. E 2 secondi che la fanno la tutù, 2 secondi. A capo Antonio. Ya he llegado, me he puesto de corrillo aquí y ahora me he puesto a mirar aquí. tutti quelli che sono qui, vieni me. Grazie, non è che vita l'abbiamo pagato. Sai, già, a me, ha detto, guardiamo bene, già, vediamo come vediamo le parole, se ci siamo, e già siamo stati più tempo. Ma dove ci sei? Già, non copiamo, ciao, ciao. Chi è che nudo è qua? Avanti! Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Avanti! Muoviamo, guarda.